Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Draghi dice altri tagli o inevitabili più tasse. Tremonti, problemi sono dell'Europa. La procura di Palermo chiede il processo per il ministro Romano. Faida di San Luca, liberi 12 imputati, erano stati condannati a 8 anni. Censis, su internet un italiano su due e i ragazzi si informano sul web. Una buona giornata ad Alessandra Tedesco e dalla redazione. In primo piano la crisi finanziaria con gli interventi di Draghi e Tremonti all'Assemblea dell'ABI. Ce ne parla in diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. La crisi internazionale, gli attacchi speculativi al nostro paese, la manovra economica, la risposta del sistema bancario al centro della 51esima assemblea dell'ABI. Il ministro dell'economia Tremonti ha confermato i tempi di conversione del decreto, lo approveremo entro venerdì e l'intera manovra sarà rafforzata su tutto il quadriennio, ha detto il titolare del tesoro. Per Tremonti comunque i problemi sono dell'intera Europa e non solo dell'Italia. Il governatore Draghi, quindi, dobbiamo trovare un intento comune al di là degli interessi particolari e di fazione, ha detto il numero uno di Banca Italia parlando del delicato momento del paese. Ma sentiamo Draghi sulla manovra. Gli interventi all'attenzione del Parlamento sospingono il processo di riduzione del debito. Avendo anticipato le usuali scadenze, occorre ora definire in tempi rapidissimi il contenuto delle misure ulteriori volte a conseguire il pareggio di bilancio nel 2014. A questo soprattutto guardano oggi i mercati. Se non si incide anche su altre voci di spesa, il ricorso alla delega fiscale e assistenziale per completare la manovra nel 2013-2014 significa un aumento delle imposte. In particolare dunque la ricetta del governatore passa per due strade da percorrere, riforme strutturali per la crescita ed ancora nuovi tagli alle spese per evitare nuove tasse. Poi una riflessione sul sistema bancario italiano, le nostre banche, ha garantito Draghi, supereranno gli stress test dell'Unione Europea. Dal presidente dell'ABI Mussari infine l'auspicio che la manovra venga approvata il prima possibile. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, intanto prosegue appunto come abbiamo anche sentito l'iter della manovra, ce ne parla Elisabetta Fiorito. Sì, il decreto per il pareggio di bilancio sarà quindi approvato entro venerdì, domani entro le 14 l'approvazione da parte del Senato, poi il passaggio record a Montecitorio per dare un segnale forte ai mercati e il ministro dell'economia Giulio Tremonti smentisce le voci di possibili dimissioni, la manovra sarà approvata da chi l'ha presentata. Sulle novità contenute nel decreto il ministro della semplificazione Roberto Calderoli smentisce poi l'ipotesi di privatizzazioni grazie a concessioni di quote di grandi aziende come Eni, Enel e Finmeccanica. Chi fa i nomi mente, spiega in Senato, riguardo alle indiscrezioni di stampo non è stato deciso nulla. La norma dovrebbe comunque riguardare le municipalizzate, ovvero le aziende dei comuni che gestiscono i servizi, escluse quelle dell'acqua, per rispettare l'esito del referendum. Dal canto suo l'opposizione insiste, Berlusconi si deve dimettere subito dopo l'approvazione della manovra, lo ribadisce Anna Finocchiaro, capogruppo PD al Senato, la latitanza politica del Premier è un brutto segnale per i mercati e rende scarsamente credibile il nostro Paese. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, ora sentiamo come stanno andando i mercati questa mattina. Deborah Rosciani. Allora, mercati dei quali si aspettava una reazione dopo che Moody's ieri, con una vera e propria doccia fredda, secondo come hanno detto molti analisti, ha tagliato il rating dell'Irlanda a junk, spazzatura con delle prospettive negative. La notizia però stamattina non si è abbattuta in maniera particolarmente violenta sui mercati, che anzi hanno aperto in maniera contrastata, ma con una reazione appunto di tenuta. Poi tutti hanno rafforzato le loro posizioni positive, adesso vedo di nuovo un tentennamento, c'è Parigi che cede lo 0,12%, Francoforte ancora positiva per lo 0,28%, Londra più 0,26%, Milano guadagna l'1,26%, recupera un po' di più, ma è la piazza che ha perso di più tra venerdì e lunedì scorsi, e il FTSE MIB è arrivato a guadagnare 2,5%. Dopo le parole di Draghi e Tremonti all'assemblea dell'ABI. Adesso anche Milano riduce i suoi guadagni ma rimane ancora positiva. Rimbalzano bene i titoli del settore bancario, rimbalza bene Atlantia, la ex Autostrade, mentre sono in difficoltà Parmalat con la nomina del nuovo amministratore delegato e Azimut che cala di quasi 2 punti. Euro su dollaro a 1,40,56. Questa è la situazione sui mercati, per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani, noi ora andiamo a Palermo perché la procura chiede il processo per il ministro Romano. Ce ne parla qui da studio. Raffaella Calandra. Il giudice l'aveva ordinata alla procura 4 giorni dopo la depositata. Richiesta di rinvio a giudizio per il ministro dell'Agricoltura, ora formalmente imputato di concorso in associazione mafiosa. Nella sua veste di politico nazionale, Saverio Romano, scrivono i PM palermitani, ha consapevolmente contribuito al sostegno dell'associazione mafiosa, cioè in cambio di voti, questa è l'accusa, avrebbe messo a disposizione di Cosa Nostra il proprio ruolo, come quando ad esempio sostenne la candidatura alle regionali segnalata dal boss di Brancaccio Guttadauro di Mimmo Miceli, poi condannato per mafia. D'altra parte, secondo la procura, entrambi venivano accreditati come interlocutori da ascoltare nella gestione degli equilibri politici dei Cristiano-Democratici Uniti. Nel chiedere il processo per il ministro Romano, i magistrati elencano i suoi rapporti soprattutto con i Mandalà, la famiglia mafiosa di Villa Abate, già svelati dal pentito Campanella. Ma inizialmente la procura aveva chiesto l'archiviazione per mancanza di sufficienti riscontri. Diversa invece la lettura del GIP, che ha imposto l'imputazione coatta, così ora i PM 4 giorni dopo chiedono il processo per quel ministro sulla cui nomina da subito si erano già allungate le perplessità del Colle proprio per queste accuse. Grazie Raffaella Calandra. E la giunta per le autorizzazioni della Camera voterà domani sulla richiesta di autorizzazione all'arresto per Alfonso Papa, il deputato del PDL coinvolto nell'inchiesta sulla P4. Oggi la seduta sarà dedicata alla discussione generale del caso. Intercettazioni illegali, il Parlamento britannico contro Murdoch e anche gli Stati Uniti mettono nel mirino il magnate dei media. Lo scandalo intercettazioni illegali che sta investendo l'impero Murdoch in Gran Bretagna approda negli Stati Uniti, dove il senatore democratico Jay Rockefeller, tra l'altro vicino alla Casa Bianca, in una interrogazione scritta chiede che si accerti che nessun cittadino americano sia stato spiato dai giornalisti di News Corp, che negli Stati Uniti controlla, tra gli altri, la televisione Fox News, il Wall Street Journal e il New York Post. E se questo è il clima oltreoceano, le cose vanno assai peggio a Londra. E quindi, dopo aver chiuso il News of the World, lo storico tabloid al centro dello scandalo, Murdoch starebbe perfino pensando di vendere tutte le testate di stampa scritta di News International, ovvero la divisione britannica di News Corp. Di certo, nell'immediato, c'è che oggi stesso potrebbero naufragare le ambizioni di Murdoch di espandere l'impero con l'acquisizione della pay TV britannica Sky B. Il Parlamento in giornata infatti voterà la mozione presentata dall'opposizione laburista e poi appoggiata dalla maggioranza, che chiede al gruppo di rinunciare al piano. Ma non è affatto detto che lo squalo australiano accetti la resa. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Torniamo in Italia, in Calabria, per la precisione la faida di San Luca. Liberi 12 imputati, erano stati condannati a 8 anni. Condannati in primo e secondo grado, ma in libertà. Per 12 dei 43 imputati nel processo che vede coinvolte le famiglie di San Luca, che sfociò a Ferragosto del 2007 nella strage di Duisburg, le porte del carcere si sono riaperte. Sono stati scarcerati per decorrenza dei termini, dopo che solo 2 settimane fa era arrivata la conferma della condanna in appello a 8 anni di reclusione ciascuno. Il motivo è tecnico. I 12 avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato, ma a 2 anni dalla prima sentenza la condanna non è ancora definitiva. La stessa richiesta era stata avanzata ai giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria, che però l'avevano rigettata. Ora il riesame ha detto sì. Tra coloro che tornano liberi c'è anche Santo Vottari, ritenuto il responsabile dell'omicidio di Maria Strangio nel giorno di Natale del 2006. L'omicidio chiave della vicenda che avrebbe scatenato proprio la risposta dei clan culminata nella strage in terra tedesca. Una notizia che è ancor più dell'incredibile, perché arriva a poche ore dagli ergastoli arrivati per gli stessi episodi. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La polizia ha condotto questa mattina a Roma una maxi operazione su usura, riciclaggio ed estorsioni, con 11 ordinanze di custodia cautelare e 54 perquisizioni. Disposto il sequestro di 10 immobili, 9 società, 12 automezzi e 3 circoli. Oggi sull'Italia picco di caldo, con le temperature che ieri hanno raggiunto punte di 43 gradi a Cagliari. È previsto bollino rosso per ben 13 città. Sentiamo Paola Michelozzi della ASL, responsabile del servizio di monitoraggio. Oggi noi abbiamo dato l'allerta su gran parte delle città, in particolare in Italia centrale, al massimo allerta per la previsione degli effetti sanitari della situazione climatica, perché il persistere di alte temperature ha un effetto cumulativo, per cui abbiamo allerta 3 su buona parte dell'Italia centrale e alcune città del nord. Da domani però in gran parte delle città dovremmo assistere ad un calo di temperature e quindi una riduzione del livello di allerta sugli effetti sanitari. Permane una situazione di criticità anche per domani, prevista su Perugia, Pescara e Campobasso, che però si dovrebbe risolvere a partire dal 15. Poi certamente siamo già reduci da un periodo piuttosto lungo con temperature elevate che ne vedremo gli effetti, poi ne misureremo gli effetti nei giorni prossimi. E ovviamente in particolare sono a rischio le persone non autosufficienti, le persone con malattie cardiovascolari o respiratorie croniche e le persone che sono soggette a certe terapie. Cresce l'utenza italiana di internet, questo secondo quanto dice il Censis. La TV resta la regina, ma internet cresce e per la prima volta l'utenza della rete supera nel nostro paese la soglia fatidica del 50%, per l'esattezza il 53,1 nel 2011. La fotografia scattata dal nono rapporto Censis-UCSI sulla comunicazione mostra una realtà in evoluzione, con fenomeni anche nuovi rispetto a quelli osservati finora. Il calo del digital divide infatti si accompagna alla crescita di un vero e proprio press divide, con la quota di italiani che leggono giornali o riviste che passa dal 60,7% al 54,4% in due anni. La TV resta il mezzo con maggior utenza, ben il 97,4% degli italiani. Il digitale terrestre ha superato il 75%, mentre si ferma a quota 35% la TV satellitare. Prosegue la crisi della stampa, con i quotidiani a pagamento che scendono al 47,8% di utenza. Tiene sempre molto bene la radio, che dopo internet è il mezzo che ha guadagnato di più nell'ultimo decennio ed è il secondo media in assoluto per numero di utenti. Si indebolisce il cellulare, ma nel suo utilizzo cresce l'utenza internet grazie agli smartphone. A essere protagonisti del boom del web sono soprattutto i giovani. La rete conquista più dell'87% degli under 30, che però abbandonano sempre di più i testi a stampa. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Elton John e Liza Minnelli, protagonisti delle serate musicali di Roma e Perugia. It's a little bit funny. Il baronetto del rock inglese è arrivato nella notte a Fiumicino con il suo jet privato dopo un concerto a Padova. I fan potranno ascoltarlo questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma e domani sarà invece a Lucca. Rinvigorito anche dalla sua recente paternità, come altri suoi illustri coetanei, da Santana Mick Jagger, da Lou Reed, da Paul McCartney a Ringo Starr, è ancora sulla scena e non sembra proprio voglia ritirarsi. Del resto la rivista Forbes ha calcolato che nell'ultimo anno ha guadagnato la bellezza di 100 milioni di dollari. In scaletta al concerto romano i suoi grandi successi come Your Song, ma anche pezzi dell'ultimo album, ritenuto dalla critica uno dei più belli degli ultimi anni. Elton John si siederà all'immancabile pianoforte accompagnato dalla sua band e da due violoncellisti croati di 23-24 anni, Luka Sulic e Stjepan Hauser, che si sono imposti all'attenzione mondiale con un video apparso su YouTube. Perugia invece, dopo il grande concerto di Santana di ieri sera, si prepara oggi all'arrivo di Liza Minnelli, prima donna del cartellone 2011 di Umbria Jazz. La diva americana, premio Oscar nel 73 per Cabaret, si esibirà all'Arena Santa Giuliana con il sestetto del pianista Billy Strich. Prima di arrivare in Italia, la Minnelli ha cantato in Francia all'Olimpia di Parigi, dove è stata insignita della Legion d'Onore. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, che è stata curata da Daniele Biacchessi, condotta da Alessandra Tedesco, in regia grazie a Valeria Bernardi. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.